Intanto c'è Presidente della Camera che ha assunto una responsabilità gravissima di comprimere le prerogative del Parlamento, costringendolo a esaminare in poche ore una norma che riguarda l'impunità o l'immunità delle alte cariche dello Stato, quindi anche la sua, al di fuori di qualunque precedente nella storia repubblicana. Noi vogliamo che venga tolta la norma blocca processi e vogliamo discutere anche del cosiddetto lodo Alfano. Discutere. La discussione presuppone che ci sia un luogo e un tempo in cui si verifica. Certamente non negli scampoli di qualche ora all'interno di un calendario che dura da oggi a domani. Noi siamo presenti in commissione, abbiamo rifiutato di seguire e di assecondare un'agenda, un calendario che ci affida solo poche ore per discutere una norma di forte impatto sistemico sulla quale esistono forti problemi anche di costituzionalità. Vogliamo discutere di queste cose, discuterne nei tempi nei quali si discute in qualunque ambito democratico. Quello che avviene in queste ore è che il Presidente della Camera, che ha la responsabilità di decidere dell'agenda dei lavori quando manchi l'unanimità o comunque una larga maggioranza fra i gruppi nella conferenza dei capigruppo, ha deciso che questa agenda venga rivoluzionata, costringendo il Parlamento a decidere in poche ore, al di fuori di qualunque precedente, con tempi strettissimi, di una norma che ha grande impatto sistemico.